Non si fermerà e non smetterà di raccontare tutto quello che sei, quello che fai, come lo fai, cosa dai. Certo, parlo al presente perché tu non te ne andrai mai. Troppo difficile trovare le parole giuste, più semplice affrontare 100 più tempeste. Dalle foreste alle città una sola essenza, qua si celebra un rito al passo della stessa danza. Voglio vederti ballare su quella luna tonda, voglio sentirti cantare la melodia di onda. Voglio poter credere che per l'eternità un disco ancora suonerà e il mondo ballerà. Voglio provare quella stessa emozione qualunque volta ascolterò una tua canzone. Voglio rivolgerti il mio umile saluto nello stesso modo in cui nel mondo tu mi hai dato il benvenuto. Vola sempre più su come un'aquila, tu apri le tue ali e lascia che questa melodia cada su me. Semplice per molti distorgere fatti, luoghi e volti, falsità scorrette, verità mai dette. Una vita fatta a fette dalla gente avrà milioni di vendette. Hanno provato a distruggerti in ogni modo, sminuendo quel genio che io in te ritrovo, quell'incredibile artista con movenze e suoni unici da ogni punto di vista. Ancora oggi rido se penso a tutte quelle volte che ho pensato che ai piedi avessi le rotelle, quel moonwalk che tutti imitano ma che nessuno di sicuro come te ma lo farà. Già, ora sei sopra di noi, ti immagino che canti e balli così non la smettere mai. Con l'abito da smooth criminal, lasciando tutti a bocca aperta anche chi ti discrimina. Ora sempre più su come un'aquila, tu apri le tue ali e lascia che questa melodia cada su me. E ora mi sento come se solo vero che per me è significato tanto, giuro questo è il fatto. E questo è il minimo che io potessi fare, dedicarti una canzone che mi aiuti a ricordare che sei stato uno di quelli ad avermi spinto a fare ciò che faccio. Ne sono più che convinto che se tu non fossi esistito forse io non sarei qua a costruire la mia vita sulla musica. E in questo triste presente la cosa può valer niente, è così per molta gente, ma so che ci sarà chi comprende. Non chiedo nulla per questo, per me è soltanto un bel gesto, un saluto da me stesso al mitico e unico Michael Jackson. Vola sempre più su come un'aquila, tu apri le tue ali e lascia che questa melodia cada su me. Vola sempre più su come un'aquila, tu apri le tue ali e lascia che questa melodia cada su me. E ora mi sento come se forever.